Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. E allora Chiara, come stai? Eccoci qua, ben ritrovati a tutti, ciao ciao Federico, io sto bene. Che cosa sta per arrivare a voi adesso? Allora, abbiamo fatto una bella puntata molto diversa, con argomenti molto diversi. Allora, intanto se ti dico correre sull'acqua, secondo te è possibile? Sembra di sì. In realtà è possibile per delle lucertole, ma forse anche per gli esseri umani. Vediamo quali sono le applicazioni di questa strana ricerca. Oh, poi dopo parte anche a Mebius una finestra che Radio 24 vuole dedicare ai problemi della disabilità e vi parleremo di un progetto specifico. E infine, in conclusione, parliamo del mondo degli acquari, questo mondo che insomma racchiude tantissimi aspetti davvero interessanti sulla biologia degli animali, ma anche su questa passione che in tanti hanno e forse nasconde qualche segreto un po' cattivo. Qualche problema c'è. Via! Dunque, camminare, correre sull'acqua, togliamo subito i riferimenti camminare molto sull'acqua, alti. Eccolo, mettiamolo un attimo da anche parte. Perché potrebbe essere molto impegnativo e invece vediamo la cosa da un punto di vista scientifico. No, parliamo con... Ecco, allora, ne parliamo con Francesco Laquaniti. Intanto, buonasera, benvenuto a Mebius. Buonasera. Buonasera, Laquaniti. Lei è professore di fisiologia presso l'Università Tor Vergata di Roma e dirige anche un centro di biomedicina spaziale, che appunto, detto così, poi vedremo un po' anche quali sono le applicazioni di questo studio, che appunto ha come riferimento il correre sull'acqua. Qui forse ci deve spiegare un po', prendete un po' spunto da un rettile, forse da una lucertolina. Sì, esattamente, la domanda scientifica era innanzitutto una curiosità, e cioè naturalmente per l'uomo è impossibile in condizioni normali camminare o correre sull'acqua, però ci sono degli animali piccoli come la lucertola che sono perfettamente in grado di correre sull'acqua per evitare i predatori oppure cacciare le loro prede. E noi ci siamo chiesti se riuscivamo a riprodurre in condizioni molto particolari esattamente la corsa sull'acqua che usa la lucertola. Per essere rigorosi, non tutte le lucertole, ma in particolare il basiliscus, giusto? Sì, infatti. Perché noi non abbiamo solo... degli ascoltatori molto rigorosi. Attenti, ecco. Sì, non solo, ma il basilisco giovane, e cioè fino a circa 100 grammi di peso, 140, poi dopo crescendo non ce la fanno più e infatti abitano poi in posti diversi. Qui in parte ha introdotto un po' la cosa, perché appunto essendo più leggero riesce a sfruttare che cosa sulla superficie dell'acqua? Ma fondamentalmente quello che fa la lucertola, lo diremo tra un attimo, l'abbiamo raccontato al festival appena finita la conferenza. Ecco, sì, forse non l'abbiamo detto, ricordiamolo che noi come sempre prendiamo un po' spunto dai festival della scienza. Lei proprio un paio di giorni fa ha tenuto una lectio magistralis appunto al festival della scienza di Genova, e quindi noi abbiamo scelto questo tema da raccontare anche agli ascoltatori. Ecco, scusi se l'ho interrotta, prego. Ecco, quindi la lucertola quello che fa è muove molto rapidamente le zampe posteriori, schiaffeggia l'acqua molto rapidamente in modo tale da esercitare delle forze che la tengano a galla mentre corre. E questo lo fa con un artificio stupendo, che è quello di costruire, immergendo la zampa nell'acqua, una bolla d'aria in cui resta immersa la zampa, e quindi si evita l'effetto dell'attrito dell'acqua, che rallenterebbe molto il movimento. E allora noi ci siamo chiesti, ma guarda un po', naturalmente l'uomo questo non riesce a farlo, ma saremmo in grado, in condizioni che sulla Terra sono artificiose, ma chi lo sa, in un altro mondo sarebbero possibili, di far correre l'uomo? E la risposta è sì, perché se uno prende a prestito il meccanismo della lucertola e la ragione per cui l'uomo può, in condizioni molto particolari, imitare altri animali, è perché è in grado di usare meccanismi molto simile. Molto simile. Sì, a dispetto del fatto che naturalmente poi la nostra andatura ha preso, diciamo così, una strada tutta diversa nell'evoluzione. Certo, ma voi immagino che non abbiate addestrato degli esseri umani, dei signori o delle signore molto leggere a correre con quattro zampe. Come li avete, cosa li avete costruito intorno? Siamo partiti dalla teoria, dalla fisica, e cioè c'è una differenza di circa 1000 volte nella massa dell'uomo rispetto rispetto alla massa della lucertola basilisco giovane che può correre, 70 kg verso 70 grammi. Allora, per poter imitare la lucertola, in qualche modo bisogna che ci troviamo a una gravità molto ridotta, cioè non più sulla Terra. Si prendono le equazioni idrodinamiche della fisica e si calcola, si predice con esattezza quello che sarà il valore della gravità. Si trova che sulla Luna l'uomo potrebbe effettivamente correre. Noi l'abbiamo fatto in laboratorio, abbiamo usato uno strumento. È costruito un po', insomma. Allora, esatto, ma è un apparato che noi in realtà usiamo tutti i giorni, poi magari lo diciamo dopo, per studiare i pazienti e riabilitare i pazienti. Ah. In un intervallo, diciamo, di tempo libero abbiamo usato questa stessa macchina che solleva la persona e abbiamo chiesto a dei giovani volontari, naturalmente energici, ma peraltro normalissimi, non addestrati, anche perché non avevano mai avuto esperienza prima di questo evento della corsa sull'acqua, e li abbiamo tirati su fino a riprodurre la gravità della Luna. Ma e sì, dopodiché sì. Gli abbiamo chiesto di stare a galla e di correre, e correvano, e si è visto che è esattamente lo stesso meccanismo di movimento e le stesse equazioni che valgono per la lucertola valgono anche per l'uomo. Per l'uomo. Ma erano imbragati un po' come dei burattini, come una roba di questo genere. Emozionante. E come diceva, però, insomma, la ricerca non è fine a se stessa, senz'altro affascinante, vincerebbe l'Ig Nobel, però ha delle applicazioni interessanti dal punto di vista riabilitativo. Infatti, innanzitutto l'Ig Nobel ha effettivamente vinto. È stato un divertissement. Sì, abbiamo avuto l'Ig Nobel per la fisica. Non quest'anno, quest'anno? No, un paio di anni fa. C'era sfuggito questa cosa. No, adesso che ci penso, però forse l'avevamo anche citato. L'avevamo anche citato. Sì. Ah, certo. Sì. Va bene, comunque io, siccome in genere appunto ci occupiamo di cose anche applicate, e questi stessi sistemi di sgravio del peso corporeo li usiamo tutti i giorni per studiare come i pazienti con lesioni neurologiche possano reimparare a camminare. Mm. E si tratta, ecco, questi sono lavori che facciamo alla Fondazione Santa Lucia, dove siamo dotati appunto di questo macchinario piuttosto sofisticato per applicare livelli variabili di gravità. Il paziente, lo sapete, dopo una lesione per esempio traumatica del midollo spinale, tipicamente sta sulla carrozzina, sulla sedia a rotelle, perché non ha più la funzione antigravitaria. E quindi è in qualche modo intuitivo che se uno sopperisce a questa funzione con una macchina esterna che quindi tenga su il paziente, svolga questa funzione antigravitaria, diventa più facile recuperare ed è quello che magicamente si vede che non tutti, ben inteso, ma i pazienti, soprattutto quelli più giovani che abbiano delle possibilità di recupero, con sedute quotidiane su questa macchina, loro hanno i piedi su un nastro trasportatore, fisioterapisti, e si vede che riprende poco per volta l'automatismo spinale. Insomma, gli riducete il carico ponderale, diventa più semplice reimparare a fare quello che si faceva prima. E man mano li si riporta, soprattutto i pazienti meno gravi, quelli che abbiano una lesione incompleta del midollo spinale, li si riporta poco per volta con i piedi sulla terra, perché naturalmente non è che loro possono andare in giro tutto il tempo camminando sulla Luna, quindi dopo settimane di questo trattamento, nei casi migliori, ripeto, le cose funzionano. Il paziente è in grado poi di riprendere, questo perché appunto il midollo spinale ha ripreso la sua funzionalità. L'Aquaniti, il tempo nostro è finito, dico però ai nostri ascoltatori che sul blog dei link a dei video che fanno vedere un po' queste cose qui, compreso il basilisco. E rettifico in diretta che in realtà avevamo dato la notizia dell'Ig Nobel per la fisica del 2013 e avevamo intervistato un suo collega, l'Aquaniti, quindi avevamo già dato la notizia. Va bene, mi raccomando, buona ricerca, ci risentiamo quando ci sono novità. Grazie. Buon lavoro. Arrivederci a lei. Altro che correre sull'acqua, vediamo cosa succede sulle strade. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono rimasto da solo perché Chiara è andata a preparare un servizio che sentirete fra poco sugli acquari, un servizio molto strano, e vi faccio sentire una sigletta, sentite. anche noi disabili. Ecco, molto semplice, lancia un'iniziativa di Radio 24 che vuole assumersi il compito specifico di diffondere cultura sui problemi quotidiani delle persone disabili, cittadini italiani come tutti gli altri, ma costretti a confrontarsi ogni giorno con ambienti e esseri umani strutturati unicamente sui bisogni, appunto, dei normodotati, come si definiscono. E allora noi, come anche altre trasmissioni della radio, faremo dei servizi, insomma daremo delle informazioni su questo mondo della disabilità, nel senso che è una realtà, soprattutto per quanto interessa a Mebius, nella quale si può fare ricerca, si possono produrre delle conoscenze più avanzate di quelle che abbiamo. E proprio per parlare di questo, questa prima volta, abbiamo qui con noi questa sera Carlo Mango. Buonasera Mango. Buonasera. Direttore della ricerca della Fondazione Caripro. La Fondazione si è impegnata nel finanziare, proprio anche in modo consistente, una serie di progetti sulla costruzione, diciamo, di soluzioni, di proposte per la disabilità, con un taglio specifico che è quello della coprogettazione. Ecco, può spiegarci nello specifico che cosa vuol dire questa coprogettazione? Coprogettazione per noi vuol dire cercare di attivare in un ambiente di condivisione diversi mondi che tipicamente non collaborano, non lavorano assieme, e quindi il ragionamento che abbiamo fatto è quello di generare quello che noi chiamiamo un ecosistema, uno spazio dove ricercatori, società civile, imprese, policy maker, pazienti e clinici, per esempio, collaborano tra di loro al fine di delineare e definire prodotti magari innovativi in modo congiunto. E sono prodotti che si pensa debbano proprio arrivare all'utilizzo, insomma al mercato? Esatto, cioè noi non intendiamo con questa iniziativa produrre rocket science, no? Si dice cose che chissà dove uniche, si posizionano, ma applicare, magari valorizzando tecnologie disponibili, tecnologie che oggi sono già utilizzate, ma che possono essere valorizzate e applicate su cose concrete. Ecco, ma Mango, ci sono diverse definizioni, insomma, di coprogettazione, nel senso che si ascoltano gli interessati e poi si lavora anche separatamente, oppure si fa vedere il risultato di una ricerca che è arrivata a un certo punto. Mi pare invece che qui ci sia, come dire, un modello molto forte, cioè tutti quelli che sono interessati a questo progetto devono stare insieme dall'inizio alla fine. Sì, esattamente, è un approccio estremamente dispendioso, non si tratta di mettere, che ne so, di fare un'operazione cosmetica dove poi la società civile, i pazienti vengono coinvolti alla fine del processo per validarlo. Qui è proprio un lavoro, e infatti siamo partiti proprio dalla generazione di quello che abbiamo chiamato lo spazio, no? 57 partecipanti, una sessantina di persone provenienti dal mondo della ricerca clinica, della società civile e quant'altro, che fin dall'inizio delineano, fanno un'analisi dei fabbisogni, quindi ricognizione di che cosa è utile, per poi pensare a delle soluzioni. Quindi arrivano proprio alla fine del processo. Il progetto si chiama? Il progetto si chiama CREW, no? Che fa proprio riferimento a un acronimo che parla di co-design, rehabilitation and well-being, no? Quindi certo. Benessere e riabilitazione in co-design. CREW vuol dire, appunto, insomma, la truppa, insomma, un gruppo, no? un team. Ecco, c'è però una cosa particolare: noi ogni tanto qui a Mebius ci interessiamo, insomma, ogni tanto, anzi abbastanza spesso, di innovazione. Qui abbiamo una fondazione, quindi una struttura che è no profit, che però entra fortemente nella creazione, nella produzione di un oggetto che poi va al mercato, quindi di un processo innovativo che di solito è quello che invece è gestito da aziende, magari anche pubblico aziende. Qui invece c'è un no profit che però, come dire, mette i piedi nel campo del mercato. C'è un ragionamento che proprio parte dalla voglia di identificare dei fabbisogni specifici. Per identificare dei fabbisogni specifici abbiamo pensato a questo modello di co-design, di collaborazione, di progettazione partecipata, che quindi ci vede fortemente interessati, e quindi dentro a quello che è il progetto e l'ambiente di sviluppo. Oggi c'è un tema: fondazioni come la nostra, che erogative, no? Che danno i contributi, probabilmente devono fare un passaggio oltre, cioè non essere più solamente dei soggetti erogatori di quattrini, ma anche essere addentro alle tematiche nei progetti, intravediamo in questo una nuova forma di collaborazione tra pubblico, privato, ma anche tra privato profit e no profit. Certo, ho capito, cioè il no profit riesce ad aggiungere un pezzo che invece gli attori normali del mercato magari non possono fare e invece voi riuscite a farlo. Beh, questa è una strada abbastanza originale. Carlo Mango, grazie e buon lavoro per questo progetto. Grazie mille a voi per l'attenzione. Ecco qua, Chiara è tornata, ciao. Eccoci qua, ciao Federico. Allora, parliamo di un altro festival della scienza che si è chiuso, quello di Bergamo. Si è appena concluso a Bergamo, e però noi i festival ci piace raccontarli anche via radio, anche quando si sono conclusi. E c'è stato un bel evento che ci piace insomma raccontare anche agli ascoltatori, sugli acquari e i pesci che abitano questi piccoli ecosistemi domestici. Esatto, l'acquario casalingo. L'acquario casalingo, ci sono dei veri e propri cultori amanti del genere, c'è da dire, ci sono tanti anche negozi e esercizi che permettono di avere questa passione proprio, c'è da dire. A Bergamo ne ha parlato Ike Olivotto, che è qui con noi questa sera. Benvenuto, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Ne ha parlato perché è docente di acquacoltura e acquariologia all'Università delle Marche ad Ancona, quindi sì. ne sa a bizzeffe nei corsi di biologia marina. Allora, senta Olivotto, cominciamo andando proprio per ordine da questo fatto. Magari, ecco, per esempio, Chiara lo sapeva, ma io no. C'è una vasta, come si può dire, moltitudine di fan dell'acquario di pesci di mare. Quindi non di solo, acqua salata. Non solo a dolce. Anzi, certo. Forse non sbagliamo a dire che sono i pesci, non so se si può dire, ma quelli più belli, insomma, quelli tropicali. La bellezza è sempre relativa, no? Lo quindi, so, però, ha ragione. Personalmente quelli io più amo colorati, di più quelli via. Marini, sì, ecco. Sì, sì, amo di più quelli marini, e in effetti noi lavoriamo insomma da tanti anni su quelli, diciamo l'acqua dolce è troppo facile forse per noi, però insomma non si nasconde il fatto che anche la porzione di acquari d'acqua dolce riveste un ruolo importante poi diciamo nella parte economica di vendita di questi organismi. Questi diciamo, pesci qua però Olivotto arrivano da più parti, alcune di queste parti sono un po' cattive, e cominciamo da queste? Cioè com'è che si guardi, le faccio solo un passo indietro, tanto che parlavamo dell'acqua dolce. Infatti la differenza fondamentale è che mentre l'acqua dolce ormai è allevata in cattività e quindi il pesce viene riprodotto, cioè tutto il ciclo vitale in cattività, per il discorso marino invece non siamo ancora tanto bravi, e in effetti questo è un po' il nostro lavoro, quello di capire come allevare questi animali in cattività, perché oggi appunto vengono prelevati ancora per più del 90% in mare, e spesso con metodi molto distruttivi che comprendono cose molto brutte, diciamo, quindi l'utilizzo del cianuro che quindi viene usato come anestetico, viene spruzzato quindi in mare, o addirittura nei casi peggiori la dinamite, quindi potete benissimo capire diciamo i danni. Aspetti, che però Olivotto, qui la situazione è critica. Sì. Allora spieghiamo un po' bene che cosa significa. Sì. Perché allora intanto certo, è consentita certo. Questa cosa o è illegale? Allora noi dobbiamo subito fare una distinzione tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. Allora, quelli industrializzati, noi abbiamo tutta una serie di normative che ci permettono di fare alcune cose e di non farne altre. Purtroppo nei paesi in via di sviluppo questo non è diciamo sempre possibile, proprio perché la gente è povera, ha bisogno di fare quattro soldi, quindi spesso si utilizzano anche metodi poco ortodossi, diciamo, per arrivare a avere un salario a fine mese. Adesso il discorso cianuro e dinamite non è che tutto il terzo mondo usa questi metodi, però ci sono ancora alcune realtà, Filippine, che lo fanno, Indonesia, Malesia, che in parte ancora utilizzano questi metodi, quindi ovviamente noi compriamo un pesce, ma per avere quel pesce vuol dire che abbiamo distrutto degli ecosistemi meravigliosi, ricchissimi di biodiversità, spesso inconsapevolmente, perché chi va a comprare i pesci tante volte queste cose non le sa. Ecco, allora tariamo anche questa, nel senso che detto così sembrerebbe certo. Che appunto tutti coloro che commerciano pesci, soprattutto tropicali, no, assolutamente. Ecco, sono... infatti adesso esatto. Diciamo negli ultimi anni soprattutto ci sono tantissime realtà anche in Italia che sono molto attente a queste problematiche e quindi richiedono proprio delle certificazioni. Oh, esistono specie. Delle certificazioni, certo, ok. Esiste ecco. La MAC, ce ne sono tante altre, dove ci sono proprio degli allevatori che garantiscono che il pesce è stato pescato con dei metodi sostenibili, ecco, cioè Olivotto, però sì. Olivotto, lei ha detto che vengono pescati con cianuro e dinamite, sì. Che sembrerebbe un sistema per avere dei pesci morti nell'acquario. No, non credo che la gente li compri. Purtroppo non è così, nel senso che soprattutto il pesce pescato col sodio cianuro, a meno che diciamo non si trovi molto vicino al punto in cui io spruzzo il cianuro e quindi prende una dose tale che muore, fondamentalmente resta intossicato. Quindi quello che succede è che ha un danno a livello del fegato e dei reni così forte che non è che muore subito, diciamo stenta per un certo periodo e quindi molto spesso arriva poi nei nostri negozi. E quindi quello che succede è che io compro un pesce che in realtà sembra che sta bene, ma in realtà nel giro di un mese, due, morirà perché ha subito questi danni che io da fuori non vedo. È anche per questo che solitamente appunto si dice che sono così delicati che appunto magari nel giro di poche settimane purtroppo. A volte sì, bisogna dire che oggi questo mercato dell'acquariologia ha fatto dei passi enormi, ecco, quindi anche chi sta a casa ha delle strutture meravigliose. E io che sono appassionato di acquario, devo esigere in qualche modo dal mio rivenditore il certificato, la certificazione. No, non è che lei lascia un certificato, no, però mi mostra, se io, sì, io vado da un negozio, se io ho un negoziante onesto mi venderà dei prodotti di qualità pescati in un certo modo. Diciamo che è un rapporto di fiducia anche quello che si ha col negoziante. Senta, no? Con la dinamite spezza... però ci lascia fuori la dinamite. Sì, no, è peggio, nel senso, si fanno queste bombe artigianali utilizzando dei semplici fertilizzanti e petardi, si buttano a mare. E quello che succede è che ovviamente l'onda d'urto ammazza o distrugge tutto quello che incontra, compresi i coralli e la struttura fisica del reef, no? Quindi questo è il danno più grosso. Lì diciamo, i pesci che si salvano per essere venduti sono veramente pochi, perché capite, un pesce senza una pinna, un pesce senza un occhio, eccetera, non li possiamo più vendere. No, quindi no, è il metodo sicuramente meno selettivo, questo in assoluto, è quello da condannare di più. Olivotto, in pochissimi secondi, la cosa che non abbiamo detto, abbiamo detto i metodi che insomma non vanno usati, ma velocissimo, i metodi invece che si usano è una pesca tradizionale? È una pesca che valorizza le tradizioni, quindi le donne di solito fanno dei bellissimi attrezzi di pesca con prodotti locali, vimini e altri. Piante eccetera, l'uomo va a pescare ma seleziona, cioè tengo l'animale vivo nelle nasse, nelle reti eccetera, prendo quello che mi interessa e libero, vivo e sano quello che non mi interessa. Ma lei parla, parla sempre dei paesi asiatici dove ci sono donne e uomini. Sì, noi stiamo parlando di questo. Va bene. Abbiamo capito, grazie. Grazie davvero, Olivotto. Posso chiudere con una battuta? Ma prego. Allora, l'anno prossimo uscirà un nuovo film della Disney che sarà Cercando Dory in questo caso, quindi mi raccomando, ricordiamoci che questi Dory sono pescati in mare e ognuno di questi pesci, diciamo, è stato pescato, ha fatto un lungo viaggio, quindi è un animale estremamente prezioso. Quindi facciamoci un piccolo esame di coscienza e facciamo in modo di accoglierlo nelle nostre case nel miglior modo possibile. Lei lo dice un po' come è successo per Nemo, insomma, con i pesci pagliaccio. Perché sappiamo che succederà la stessa cosa. Ci sarà il boom. Sì, va bene. Sì, però questo è un animale molto più delicato. Grazie, grazie davvero, Olivotto. Grazie a voi. Certo che l'idea di avere un cavalluccio marino è affascinante. È molto affascinante. Però non so. Vabbè. Mi inquieto un po'. Anche noi come Expo chiudiamo qui i battenti oggi, ma noi torniamo la prossima settimana. Grazie. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao!